Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Le proteste in Mali, la Polonia riconferma Duda, il vertice euroafricano su immigrazione. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. It's been described as the worst civil unrest Mali has seen in decades. Violent anti-government protests this week left several people dead. Andrea Duda got 51.21% of the vote, whereas Trzaskowski got 48.79%. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, un ottimo lunedì, un buon inizio di settimana da parte mia e da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Come lo sapete ci sono sempre Antonio Tali, Lara Sisana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi Jacopo De Franchi in assistenza e in regia ritroviamo Valeria Bernardi. 349-238-6666, oramai lo conoscete a memoria ma è utile ugualmente ricordarlo. Per cosa? Per porre domande, per commentare, per inviare WhatsApp ed SMS, anche se il primo strumento è certamente più gradito al pubblico di Nessun Luogo Lontano. Così come parecchio utilizzato anche Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Infine Twitter, se amate cinguettare, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. I temi di quest'oggi, come spesso accade il lunedì, traggono l'IFA anche dal weekend appena trascorso. Andremo innanzitutto in Mali per delle proteste antigovernative in un paese che dal 2012 è funestato da una serie di ribellioni, di insurrezioni jihadiste e adesso anche un movimento antigovernativo che sta facendo sentire la sua voce. Poi andremo in Polonia, dove Andrzej Duda è stato riconfermato alla presidenza, anche se l'opposizione ha visto crescere parecchio il suo consenso e i suoi voti, non abbastanza, vittoria risicata al photo finish per Duda. Infine faremo il punto sul nuovo patto che l'Unione Europea sta per mettere sul piatto dopo il vertice euroafricano che si è tenuto rigorosamente in videoconferenza e organizzato dal ministro Lamorgese. Questi temi di quest'oggi, 349-238-6666, intanto noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci riporta nei Balcani. Abbiamo a lungo parlato nelle scorse puntate in Nessun Luogo Lontano della situazione in Serbia, soprattutto per le proteste davanti al Parlamento di Belgrado. Ricorderete che alcuni manifestanti scandivano slogan, oltre che contro il governo, anche contro la politica di appacificamento con il Kosovo, se preferite. Una ferita ancora aperta, ancora sanguinante, alla quale si aggiunge un risvolto politico che affonda le sue radici nella storia, ma che promette di dare i suoi controversi frutti nei prossimi giorni. Perché vi dico questo? Perché il presidente kosovaro Hashim Thaci è entrato oggi al tribunale dell'AIA, dove dovrà rispondere di crimini di guerra e contro l'umanità. Il tribunale ha sollevato queste accuse nei suoi confronti il 24 giugno e adesso verrà ascoltato e ascoltato in queste ore, e poi i giudici dovranno pronunciarsi su una serie di episodi quando l'attuale presidente era tra i leader dell'esercito di liberazione del Kosovo, UCK, quella guerriglia che raccoglieva tutta l'identità albanese e kosovara e che combatté i serbi nel conflitto armato del 98 e del 99. Tra le dichiarazioni che ha espresso lo stesso Thaci c'è questa molto forte: nessuno può riscrivere la storia, questo è il prezzo della libertà, credo nella pace, nella verità e nella giustizia. Queste sono le dichiarazioni prettamente politiche. Adesso la storia in realtà la dovranno riscrivere i giudici dell'AIA per stabilire una volta per tutte se vi siano stati o meno violazioni. E poi in Afghanistan, perché le notizie che arrivano dal tormentato paese sono particolarmente gravi. Nelle ultime ore si sono registrate una serie di violenze e di scontri veramente incredibili. I dati del Consiglio di Sicurezza Nazionale Afghano indicano che negli ultimi 7 giorni vi sono stati 284 attacchi dei talebani in 16 diverse province del paese. Le ultime 5 avrebbero fatto almeno 23 membri delle forze di sicurezza afghane come morti, 19 invece della fazione opposta, quindi i talebani, ma anche 23 civili uccisi e altri 45 feriti. Le ultime province attaccate, oltre a Logar, vicino alla capitale Kabul, anche Kunduz, Ghazni, Parwan e Badashkan, dove addirittura Badashkan, siamo nel nord dell'Afghanistan, un comando piuttosto nutrito, 70 talebani hanno attaccato una base militare. Lo scontro è continuato fino alle prime ore dell'alba. La modalità dell'attacco alle basi militari è ormai ricorrente. Due le motivazioni: da un lato i talebani lanciano un messaggio molto molto serio a quelle che sono espressioni in divisa del fragile governo di Ghani, dall'altro si sa mai, un attacco a una base militare afghana ben riuscita può procurare armi, può procurare mezzi e magari anche uniformi per attacchi sotto copertura. Intanto si muove, a proposito di giustizia internazionale, anche l'Olanda, perché il governo olandese ha citato in giudizio la Russia di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché è ritenuta responsabile Mosca dell'abbattimento quasi 6 anni fa causato da un missile terra-aria del volo della Malaysia Airlines. Lo ricorderete, stava sorvolando i cieli dell'Ucraina orientale. Perché proprio l'Olanda? Perché i 2/3 delle 298 vittime erano proprio olandesi. Sapete che Mosca ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento. In realtà una recente investigazione che è stata condotta da un team con membri dell'intelligence di Australia, Belgio, Malesia, Paesi Bassi e Ucraina ha scoperto che il missile utilizzato era stato dislocato, spostato dal confine russo al territorio ucraino, quello del Donbass, poche ore prima di quel funesto lancio. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha detto che la decisione olandese è un altro duro colpo alle relazioni tra i due paesi. Riteniamo che questa decisione porterà solo a un'ulteriore politicizzazione e complicherà la ricerca della verità. Altre due notizie che ci portano in Nord Africa. La prima: in Libia la compagnia petrolifera libica, la NOC, ha condannato senza riserve e ovviamente con tutte le ragioni il rinnovato blocco sulle esportazioni di petrolio libico, chiede e invoca aiuto da parte delle Nazioni Unite. Lo ricorderete, il blocco voluto dal generale Haftar almeno fino a quando controllava buona parte della Libia, adesso si è asserragliato tra virgolette in Cirenaica, alla destra sostanzialmente di Sirte, a est di Sirte. Ebbene, il 10 luglio le esportazioni erano ricominciate, ma sono state bloccate praticamente il giorno dopo. Per 6 lunghi mesi la Libia non ha potuto usufruire degli introiti derivanti dall'industria petrolifera e, come ben immaginate, questo ha avuto un impatto devastante sul paese. Vedremo se l'appello, questa volta che arriva da esponenti del mondo industriale, pur quel settore specifico petrolifero, riceverà una qualche risposta da parte della comunità internazionale. E infine continua l'odissea giudiziaria, l'avete sentito anche da Dario Ricci, da GR24, dello studente Patrick Zaki. Il Tribunale del Cairo ha disposto il rinnovo della detenzione ancora di 45 giorni per quello studente accusato di propaganda sovversiva. Ne hanno dato notizia i suoi colleghi sostanzialmente a Bologna, che fanno fronte comune contro il regime egiziano. È l'ennesima volta che il sistema giudiziario egiziano fa stare Patrick Zaki dietro le sbarre e francamente per il momento non vediamo alcuna soluzione. Questi sono i dossier più caldi, quelli che giacciono qui sulla scrivania di Nessun Luogo Lontano e sui quali stiamo lavorando io e tutta la squadra. Diventeranno puntate di Nessun Luogo Lontano, ma adesso occupiamoci di quello che è accaduto nelle ultime ore in Mali. Ci sono stati 2 morti. È successo proprio davanti a me. Ho preso i loro corpi e li ho deposti nella fossa. È importante che la comunità maliana testimoni davanti alla comunità internazionale che il presidente non è più riconosciuto come tale da venerdì scorso, ma che detiene ancora il potere. Quando si dice piove sul bagnato, in questi mesi di Nessun Luogo Lontano abbiamo spesso raccontato la crisi del Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, in termini sostanzialmente terroristici, nel senso che era la parola, l'aggettivo forse più utilizzato. Varie bande di insorgenza, vari gruppi jihadisti che stanno sostanzialmente spadroneggiando tra quei porosissimi confini, dediti spesso anche a traffici illegali. Come se non bastasse, andiamo in Mali, lì si sovrappone una crisi politica forse senza precedenti. Mi viene in mente il colpo di Stato del 2012 e l'instabilità che ne è derivata dopo quella ribellione Tuareg. Che cosa sta accadendo in Mali? Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Luca Raineri, ricercatore alla Scuola Sant'Anna di Pisa e che da tempo studia e anche da vicino proprio tutte le dinamiche di quei paesi. Raineri, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, innanzitutto, per mettere ancora più a fuoco quello che sta accadendo e quanto a volte religione e politica siano tremendamente avvinte in questi paesi, vi faccio sentire la voce dell'imam Mahmoud Diko, che è anche sostanzialmente il leader dell'opposizione maliana, che ha fatto però un appello alla calma e alla pace dopo giorni di disordini. Sentite. Bisogna fermare la violenza, ma la nostra determinazione in questa battaglia resta. Siamo qui per restaurare la nazione maliana. Quindi da un lato abbiamo un esponente religioso e in parte politico che invita alla calma. Devo dire che le immagini che arrivano da Bamako destano stupore, perché il paese per anni celebrato come modello di stabilità assieme al Senegal, giusto per spostarsi, invece ha davvero vissuto gli ultimi 8-10 anni in preda a profonde instabilità. Dicevo, dalla voce di Ko alla voce invece di un ex ministro, Omar Sissoko, coordinatore del movimento Espoir Mali Cura, sentite cosa dice. Continueremo fino alle sue dimissioni, fino alle dimissioni del suo regime. Non ci sono altre possibilità. I cittadini a Bamako non lo vogliono. Ed è così in tutte le altre città del Mali. Luca Raineri, che cosa sta accadendo in Mali e perché è così grave questa crisi politica? Sì, in effetti quello che sta accadendo in Mali ha stupito molti osservatori in una certa misura, nel senso che gli eventi dell'ultimo weekend sono di particolare gravità e intensità. Ci sono stati manifestazioni, in realtà l'ultima di una serie di manifestazioni che si sono inanellate a partire da inizio giugno. Quella di questo weekend è stata particolarmente violenta, i manifestanti hanno attaccato il Parlamento, hanno saccheggiato il Parlamento, la risposta della polizia è stata particolarmente brutale, con le forze antiterroristiche dispiegate sui manifestanti che sparavano colpi di proiettili reali sui manifestanti, che hanno provocato un numero imprecisato di morti e feriti, ma che sicuramente supera le diverse decine. In questo contesto la manifestazione sembra essere scatenata dalla crisi elettorale. Ricordiamo che il Mali ha conosciuto elezioni legislative che si sono svolte fra marzo e aprile in un contesto difficilissimo, segnato da una parte dalla continua sfida posta da l'insicurezza dei movimenti terroristici, ma anche da movimenti armati di altra natura che imperversano sul territorio e che hanno naturalmente ostacolato in parte la tenuta delle elezioni, d'altra parte resa vieppiù difficile dal contesto del coronavirus e dal distanziamento sociale. In questo difficilissimo quadro le elezioni hanno dato un risultato controverso, nella misura in cui su circa 150 seggi all'incirca una trentina sono stati riattribuiti all'ultimo minuto dalla Corte Costituzionale, quando inizialmente erano stati annunciati dei risultati diversi. Ad essere sinceri, questa riattribuzione non ha cambiato radicalmente la geografia del potere, ma è il risultato nel suo complesso che ha suscitato grande indignazione della popolazione maliana. Ai primi tre posti delle elezioni risultano tre partiti che tutti derivano dallo stesso partito e che è sostanzialmente il partito di maggioranza dalla ottenimento del multipartitismo in Mali all'inizio degli anni 90 fino ad oggi. Quindi questa situazione di stagnazione e di assenza di un cambiamento, che invece è auspicato dalla maggior parte della popolazione, ha dato vita in quest'ultima istanza a una serie di proteste violentissime che sono la sconfessione di un'intera classe politica. E non è un caso se uno dei principali leader dell'opposizione, l'opposizione interpretata da leader che non sono politici, non si tratta essenzialmente della riscossa dell'opposizione o dei partiti che si sono visti negare un posto in Parlamento, quanto di una riscossa della società civile, dei membri, esponenti della cultura e in particolare di questo leader estremamente popolare che è il predicatore salafita, quindi di un imam particolarmente rigoroso, Mahmoud Diko. La voce, l'analisi, il commento di Luca Raineri per mettere il grand'angolo e cercare di capire cosa sta accadendo nell'importante paese. Qualche ascoltatore al 349-238-6666. Mali, continuano i danni dei francesi, così un ascoltatore che torna al passato coloniale, anche se, Luca Raineri, mi sembra una crisi questa tutta interna, non vedo, come dire, uno zampino francese in quello che sta accadendo, ma sconfessami se mi sto sbagliando. Facevo riferimento alla ribellione Tuareg del 2012. Da quella crisi lì, forse dal colpo di Stato, forse è stata un po' una cesura storica, no? Per la recente storia maliana, che da quel momento sembra non trovare più pace. Chi potrebbe tirare un po' fuori il bandolo di questa strana matassa? Insorgenze jihadiste, ribellioni appunto Tuareg, tante anime nello stesso paese, una classe politica ritenuta inadeguata. Sembra quasi che questo Mali debba essere ricostruito pezzo dopo pezzo, eppure fino a 15 anni fa lo si celebrava come grande modello. Sì, in effetti quello che vediamo è la manifestazione ennesima delle tare di un paese che si porta dietro in realtà da molti anni, sicuramente dalla crisi multisettoriale che colpisce il paese dal 2012, ma forse anche da prima. Sostanzialmente quello che rivediamo oggi è la crisi di un modello politico fondato sul consociativismo, sulla collusione e quindi in parte anche sulla corruzione, che ha a che fare, se vogliamo, con una certa connivenza o con una certa incapacità di risolvere i problemi a radice anche da parte della comunità internazionale. Non additerei esclusivamente i francesi, ma forse un più ampio consesso di attori che hanno voluto privilegiare la stabilità ad ogni costo a scapito di un intervento più radicale sulle tare profonde del paese. In questo contesto credo che sia anche importante sottolineare che alla crisi del 2012 era conseguita l'elezione dell'attuale presidente, che abbiamo sentito essere contestato, sì. Boubacar Keïta. Molti degli attuali leader dell'opposizione inizialmente avevano sostenuto e caldamente l'elezione di Keïta, ritenendolo l'uomo forte necessario per portare il paese al di fuori di questa impasse. È sotto gli occhi di tutti il manifesto fallimento di questo mandato di Beka in un paese che, al contrario della regione che lo circonda, non sembra conoscere né una soluzione dei conflitti, né un progresso economico, né una capacità di assorbimento di un'importante manodopera. Sono tutti questi fattori di lungo periodo che oggi vengono a galla in un contesto di crisi politica che in effetti, come dicevi tu, sembra difficilissimo da rimarginare. Con Luca Raineri, ricercatore alla Scuola Sant'Anna di Pisa, stiamo cercando di fare il punto su quello che è accaduto. Forse una delle peggiori crisi politiche degli ultimi anni la sta attraversando il Mali. Luca Raineri citava questo predicatore, questo imam Mahmoud Diko, salafita, un ascoltatore subito dal polpastrello veloce: i salafiti vanno eliminati, punto. Ovviamente immagino non fisicamente, ma immagino l'ascoltatore esprimesse un certo disagio per la dottrina salafita, che è piuttosto integralista, si richiama anche a un Islam molto molto indietro nel passato e fa paura. Ecco, cosa c'è di religioso nei sermoni di Co, e quanto questa sua vocazione salafita secondo te potrebbe, come dire, indirizzare il Mali verso dei percorsi che magari non a tutti potrebbero piacere, magari a chi invoca un processo di secolarizzazione e di laicità in un paese come quello? Sì, hai centrato pienamente il punto. Credo che sia importante togliere un po' un velo mitologico intorno a questa figura del predicatore Mahmoud Diko, che è sicuramente una figura controversa, è una figura che in più di una volta è riuscita a mobilitare larga parte della popolazione, probabilmente anche avvalendosi di finanziamenti che venivano dall'estero, ma soprattutto con un discorso che fa leva su radici culturali, su un tema anche nazionalista, se vogliamo, sì, a mobilitare buona parte della popolazione contro tematiche che stanno naturalmente a cuore all'uditore occidentale: i diritti delle donne, i diritti degli omosessuali e via discorrendo, che vengono invece sbandierati per una indebita influenza imperialista dell'Occidente. D'altra parte, non va dimenticato che è proprio il predicatore di Co, che io ho incontrato diverse volte, a essere sicuramente il più importante fautore di un discorso che stigmatizza la corruzione evidente della classe politica maliana. Qualche giorno fa è uscito un video che ha suscitato clamore sui social media del Mali, del figlio del presidente nell'ambito di una festa su uno yacht privato, in un contesto naturalmente di una ricchezza inaccessibile alla stragrande maggioranza della sua popolazione. Certo. Su questi temi fa leva il predicatore di Co, non dimentichiamo che il suo movimento è un movimento che avvicina anche l'estrema sinistra maliana. Cioè la seconda voce che abbiamo sentito prima, quella del regista e politico e esponente della società civile Sissoko, è una voce ritenuta localmente voce di estrema sinistra, che però si avvicina ai temi dell'antiimperialismo, ai temi della lotta alla corruzione, anche se vogliamo con una retorica populista, devono tutti andare a casa. Sì, e in questo modo rispondiamo anche all'ascoltatore che sollecitava in qualche modo di tracciare una linea rossa che lega l'ex colonia francese proprio a Parigi e alla politica. C'è qualcosa che unisce sicuramente l'Italia e la Francia, vi stupirete di questo, nel Sahel, che è l'invio di militari. Approfitto della presenza di Luca Raineri perché, come sa meglio di me, la partecipazione dell'Italia alla task force europea Takuba in Tamashek, la lingua dei Tuareg significa spada, quindi anche dal nome direi particolarmente bellicosa. Il teatro dell'operazione è tra Mali e Niger. Le operazioni dovrebbero iniziare quest'estate, tra quest'estate e la prima parte del 2021, durata 3 anni, 200 unità militari, 20 mezzi terrestri, 8 mezzi aerei, un bilancio 16 milioni di euro. L'Italia c'è già in quella zona, è già in Niger, è già in Mali, per esempio, nell'ambito della missione delle Nazioni Unite. Quanta allergia può creare, Luca Raineri, una presenza militare? È vero che si va a fare addestramento, è vero che si va a lavorare contro i terroristi, i gruppi jihadisti, il grandissimo traffico di ogni tipo che in quei confini avviene, ma questo potrebbe essere un detonatore alla lunga, la presenza straniera, la divisa con lo standard italiano o quello francese, eccetera. Naturalmente la presenza di truppe straniere può essere uno dei temi che in un certo senso catalizzano la protesta politica. D'altra parte non va dimenticato che proprio questo tipo di dispiegamento, ovvero un dispiegamento che è tra virgolette di training, ma di fatto quanto di più avanzato la legislazione europea consente in termini di dispiegamento militare, ovvero con i cosiddetti addestratori che saranno in prima linea a fare mentoring più che training, ecco, questo risponde in realtà a una precisa richiesta delle autorità maliane, che si sono più volte lamentate nei confronti dei partner europei dicendo: voi siete qui a spiegarci come si dovrebbe costruire un sistema democratico di governo delle forze di sicurezza, e mentre siete qui a criticarci per i nostri inadeguati standard, noi veniamo continuamente bersagliati da attori militari vari e terroristi. Noi abbiamo bisogno di cannoni, di aviazione e di elicotteri. Naturalmente questa è una richiesta che a Bruxelles non ha mancato di suscitare più di una perplessità, certo, nella misura in cui sappiamo che in passato le forze di difesa maliane e anche questo weekend non hanno dato prova di pieno rispetto per i diritti umani, per dirla con un eufemismo, e anche perché i paesi europei non sono tutti altrettanto disposti quanto la Francia a un dispiego così importante di uomini, mezzi e denaro su un fronte come quello del Sahel, che è percepito da molti non prioritario e secondario. Ed è vero che in questo contesto l'Italia, in un segnale di riavvicinamento più ampio orizzonte con Parigi, ha voluto dare un proprio contributo a questa forza Takuba, che in realtà non è ancora ben identificato. Non sappiamo esattamente di quanti uomini, di quanti mezzi, di quanti soldi, di che ruolo avranno le forze italiane, ma questa decisione è stata presa, tant'è che la ritroviamo nell'ultimo decreto missioni. E staremo a vedere se anche la proiezione italiana cercherà e farà il suo per andare a stabilizzare quella regione. Grazie mille, Luca Raineri, ricercatore alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Buona giornata e buon lavoro, Luca. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata. Allora, 16:31, 10 secondi, piccola pausa. Sentiamo come vanno le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Tra poco apriremo per sfogliare insieme a voi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Tratteremo il tema immigrazione, non prima di avervi dato conto di un po' di reazioni che arrivano al 349 238 6666 e su Facebook. Un ascoltatore: io non sottovaluterei la politica estera coloniale della Francia. Il primo viaggio all'estero che fece Macron fu in Camerun per sistemare un paio di cose, tra virgolette, come mi ha raccontato il vicino di casa, scrive l'ascoltatore, che è di origine camerunense. E qualcun altro: non dimentichi che i salafiti sono pericolosi. In Tunisia tutti i giovani partiti per la Siria sono diventati soldati ISIS, erano tutti salafiti. Da questo punto di vista non c'è alcun dubbio che quella visione tradizionale, rigorosa, estremista dell'Islam sia diventata linfa vitale anche per il sedicente Stato Islamico. La Tunisia, ricordiamolo, nel 2011 è stato tra i paesi che ha sfornato più foreign fighters, che si sono poi recati in Siria a combattere. 349-238-6666. Adesso però voltiamo pagina. Perché? Perché quest'oggi si è tenuto rigorosamente, in videoconferenza ovviamente, un importantissimo vertice. Un vertice che sostanzialmente avrebbe dovuto ristabilire e ridisegnare i confini del cosiddetto New Pact on Migration and Asylum. Già dal dicembre scorso, con l'insediamento della nuova Commissione europea, il commissario per gli affari interni Johansson e la vicepresidente avevano iniziato un lungo giro di consultazioni tra le capitali europee per cercare di, come dire, sentire un po' il polso dei vari paesi europei per attuare una nuova politica sull'immigrazione. La presentazione del patto doveva tenersi a marzo, ma con l'epidemia Covid-19 tutti i piani sono stati sconvolti. Tre i piani in discussione che si sono discussi quest'oggi. Uno, il sistema di Dublino. Voi sapete che è un sistema ormai consolidato e che ha mostrato le sue crepe. Dublino 1, poi Dublino 2, poi Dublino 3. Il primo paese che il migrante tocca è quello destinato a espletare le procedure di un'eventuale richiesta d'asilo. Con che risultato? Che Italia, Spagna e Grecia soprattutto sono i paesi in cui si addensano maggiori domande e il peso ovviamente migratorio. Secondo, le procedure stesse alle frontiere. Terzo, la collaborazione con i paesi extra Unione Europea e da ciò la presenza, oltre agli organismi rappresentanti dell'Unione Europea, ai tanti paesi europei, anche di Algeria, di Marocco, di Tunisia e di Libia, perché sullo sfondo, evidentemente lo immaginate, ci sono tutti i vari accordi di rimpatrio. Come si colloca l'Europa? Sul sistema Dublino, Visegrad più Austria sono contro Italia, Grecia, Spagna, Malta, Olanda, Lussemburgo e Germania, soprattutto sulla distribuzione delle quote dei migranti. Sul tema frontiere, il ministro degli interni tedesco insiste su procedure di identificazione e richiesta d'asilo proprio ai confini, ma molti paesi dell'Europa del Sud dicono attenzione che queste procedure sarebbero troppo lunghe. Infine, sulla collaborazione con gli stati terzi, quindi gli stati di provenienza, dovrebbe essere una questione sulla quale si continuerà a discutere e sulla quale la commissaria Johansson parla di maggiore enfasi per avere un più robusto sistema di riammissioni e di ritorni. In buona sostanza, se il migrante che arriva fa domanda d'asilo ma non ha diritto d'asilo, in tempo veloce e anche senza troppi costi dovrebbe essere rimpatriato. Sono uscite un po' di agenzie dopo l'esito di questa riunione. Johansson ha chiesto più coordinamento dell'Unione Europea per la lotta al traffico, soprattutto al traffico appunto di migranti e alle capacità dei trafficanti. Si è chiesto di usare meglio i dispiegamenti di Frontex. A questo punto io però vi faccio sentire la voce di qualcuno che da tempo segue queste questioni e soprattutto ha seguito questo nuovo patto sull'immigrazione. Lui è Alberto Horst Neidhardt, ricercatore dell'European Policy Center, che ha fatto proprio uno studio su questo patto e quali sono i punti centrali del nuovo patto su immigrazione e asilo. Ve lo faccio raccontare proprio da lui. I punti principali toccati dal nuovo patto, per quanto ne sappiamo, dovrebbero riguardare in primo luogo la riforma del regolamento di Dublino e la questione del ricollocamento dei richiedenti asilo. In secondo luogo, il patto dovrebbe contenere un riferimento al problema dei rimpatri e più in generale il rapporto con i paesi terzi, sia di transito che di origine, che in questi anni si è basato quasi esclusivamente su politiche di contenimento. In terzo luogo, il nuovo patto dovrebbe contenere un riferimento politico oppure legislativo ad una cosiddetta procedura più rapida d'asilo ai confini esterni dell'Unione Europea, e nelle intenzioni della Commissione questo dovrebbe portare a uno smistamento più veloce di quelle richieste che possono essere ritenute legittime e quindi a un ricollocamento più efficace dei richiedenti asilo che ne abbiano diritto. Infine, sappiamo che per via dei disagi creati dalla chiusura dei confini interni è possibile che la Commissione avanzerà delle proposte che riguardano anche lo spazio Schengen. L'analisi e il commento ci arriva da Alberto Horst Neidhardt, ricercatore dell'European Policy Center, che da tempo studia il fenomeno migratorio. Vi faccio sentire allora a questo punto se è prevista in qualche modo una riforma del regolamento Dublino e se sì in quali termini, perché a mio modestissimo avviso è uno dei punti nevralgici se davvero si vuole risolvere o cominciare a risolvere una volta per tutte il dossier immigrazione. Sentite. È senz'altro probabile che si cercherà con il nuovo patto di dare una nuova spinta alla riforma del regolamento di Dublino. Questo perché è evidente che la questione dei ricollocamenti debba essere affrontata in maniera decisa e il regolamento così come è oggi è uno strumento insufficiente. Sappiamo che la Commissione sta tenendo in considerazione diverse ipotesi, tra le quali c'è anche quella di uno strumento di emergenza che verrebbe attivato solo nel momento in cui le frontiere esterne fossero soggette a forte pressioni, ma sappiamo anche che ci potrebbe essere una proposta di compromesso per cui solo quei paesi che si rendono disponibili saranno poi coinvolti nella ridistribuzione dei richiedenti asilo. La domanda principale che ci si pone è se appunto uno strumento di questo tipo, che viene attivato solo in alcune circostanze e solo su base volontaria, possa rendere il sistema comune d'asilo sostenibile nel lungo termine. E questo è uno dei temi più caldi per l'Europa, lo sapete, vi sono alcuni paesi particolarmente riottosi sulla questione della distribuzione dei migranti, faccio riferimento in particolare al blocco Visegrad ed è un tema lì sul piatto, perché se non si risolve almeno questa questione della ripartizione virtuosa dei numeri che stanno arrivando, a quel punto sostanzialmente io credo che non vi sia proprio modo di procedere ed elementare questo dibattito. Torneremo sul tema, vi ricordo avete sentito la voce di Alberto Horst Neidhardt, ricercatore European Policy Center. A questo punto facciamo un'altra piccola pausa. La viabilità è poi l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, vi racconterà il trionfo, o quasi, di Duda in Polonia. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il problema dell'acquisto di un nuovo veicolo. Ma è meglio aspettare ancora. A questo punto ci pensiamo dopo l'estate. A destra, guarda che i contributi scadevano il 31 agosto. Cosa? No! Non sempre si può tornare indietro. A luglio e agosto, Volkswagen Veicoli Commerciali offre 6 milioni di euro di contributi sui veicoli in pronta consegna. Se te li fai sfuggire, perdi fino a 4.000 euro di vantaggi su caddy furgone e il service plan incluso se attivi il leasing. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Se qualcuno si fosse sentito offeso da qualcosa che possa aver fatto negli ultimi 5 anni, non solo in campagna elettorale, lo prego di accettare le mie scuse. Voglio assicurarvi che avete il mio rispetto, così come ho rispetto dei miei compatrioti, indipendentemente dalle loro idee. Szacunkiem wszystkich moich rodaków, niezależnie od ich poglądu. Quasi ecumenico, quasi un abbraccio all'intero popolo polacco, quello di Andrzej Duda dopo la consacrazione alla presidenza. Affluenza del 68,9%, risultato record nel post 1989 in Polonia, però una vittoria, quella del attuale presidente e poi riconfermato Duda, del 51,21%. Maestro delle vittorie all'ultimo metro, potremmo dire. L'avversario Trzaskowski 48,79%, per l'opposizione un ottimo risultato. Con il prossimo ospite andremo direttamente a Varsavia per cercare di capire cosa significa questo voto e cosa significa per la Polonia riattribuire fiducia a un leader politico che non nasconde sentimenti a volte anti-europei e che non nasconde a volte anche altre fragilità che potrebbero diventare, attenzione, siamo in Europa, le fragilità di un paese diventano fragilità europee. Buongiorno allora e benvenuto nel suo luogo lontano a Salvatore Greco in diretta da Varsavia. Scrive, collabora e argomenta le sue analisi a Centrum Report, che è un progetto giornalistico che racconta proprio i paesi dell'Europa centrale. Salvatore, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Allora, Salvatore Greco, quale Polonia ci restituisce questo voto? Un voto che è veramente sul filo di lana, davvero è così polarizzato il paese? Guardi, c'è questa vignetta che sull'internet polacco ha già avuto una grande fortuna, raffigura un grafico a torta classico diviso a metà, in due colori bianco e rosso come la bandiera della Polonia. Sì. La domanda del sondaggio, ironica, è: la Polonia è davvero divisa in due? La parte bianca risponde al sì e la parte rossa al no. È uno scherzo, naturalmente, sì, ma molto fortunato, perché raffigura veramente in maniera ideale questa divisione. Sì. Una divisione che è veramente viva nella società, una divisione economica, sociale, divisioni del mondo. Sì. Difficilmente conciliabili peraltro, sì, tra di loro. Sì, ecco, insomma, con questo senso humor polacco di cui forse in pochi sospettavamo l'esistenza, fotografiamo quello che è stato l'esito dell'ultima tornata elettorale. Io raccontavo di alcune uscite particolarmente controverse di Duda, in particolare anche gli attacchi alla comunità LGBT. Ecco, la polarizzazione, Salvatore Greco, del paese come si riflette dal punto di vista geografico e sociale? Cioè, chi è stato l'elettore medio di Duda e chi invece si è rivolto all'opposizione? I dati degli exit poll di ieri sera, che poi confermano quelli del primo turno, parlano di una divisione essenzialmente tra campagne e città. La Polonia ha 7-8 città di media grandezza, o piuttosto grandi rispetto a un territorio rurale molto esteso. I voti di Duda arrivano quasi esclusivamente dalla campagna. Tutte le città, l'opposizione ha ottenuto la maggioranza dei voti, e c'è anche un dato anagrafico incrociato interessante. A Duda è andato il voto per la maggior parte degli over 65, degli agricoltori, sì, delle persone con una istruzione bassa o medio-bassa. Per Trzaskowski, per l'opposizione, hanno votato donne, gente di città, sì, persone giovani e persone con una istruzione superiore. Sì, e questo è un dato interessante anche da tenere d'occhio, le parole e l'analisi di Salvatore Greco, Centrum Report, che racconta proprio le vicende dei paesi dell'Est Europa. Quanto, come dire, l'anima antieuropeista, questo scagliarsi contro la comunità LGBT, definita addirittura un nemico peggiore del comunismo, pensate, non si sentivano frasi simili da parecchio tempo. Quanto queste minacce, tra virgolette, potrebbero concretizzarsi una volta che è presidente? Cioè, sono state formidabili provocazioni per guadagnare voti alle urne, oppure davvero Duda potrebbe dare corpo a qualcuna di queste politiche particolarmente irritanti, secondo molti? La mia sensazione personale è che possono essere temi che il partito di governo, diritto e giustizia, di cui Duda è l'espressione, possano essere, diciamo, i tipici temi che si tirano su giù da sotto il tappeto quando servono per infiammare l'opinione pubblica e spostarla da altri temi. Questo non significa che non siano parole gravi, sono assolutamente confortanti, ma sulla concretezza di provvedimenti a riguardo forse non dobbiamo attenderci qualcosa di troppo forte. Come dicevo, nelle città questo sentimento non è arrivato, non ha attecchito, anzi, sì, è molto forte l'opposizione a questo tipo di idee, sì, e non credo che ci sia spazio per poter accettare davvero una legislazione in questo senso. Certo, peraltro non da ultimo ci sono stati anche attacchi molto molto discussi e discutibili alla comunità ebraica. Insomma, un Duda che è andato a tutto campo per parlare, forse anche alla pancia, per cercare di accendere gli animi. Un ascoltatore, dopo aver sentito questi nostri commenti, scrive: ma perché tutti i populisti sovranisti hanno il maggior numero di voti dal ceto medio-basso, sia economico che culturale? Questo non glielo so dire, gentile ascoltatore, nel senso che non le so nemmeno confermare se sia così. Non c'è dubbio che in Polonia è avvenuta questa distonia totale, no, fra campagne e città. Ce la sta raccontando Salvatore Greco, che racconta proprio su Centrum Report quello che accade nell'est dell'Europa. Il problema, scrive un altro ascoltatore, è che la Polonia, al di là delle proteste formali, è intoccabile. Per i tedeschi è terra prussiana ancestrale, buffer strategico fra loro e la sfera russa, se la terranno sempre stretta. E fa riferimento l'ascoltatore anche a, come dire, la tolleranza da parte dell'Unione Europea a certi strappi. Pensate per esempio alla ripartizione delle quote dei migranti. Con Salvatore Greco cerchiamo di affrontare in un minuto, se ce la fai, gli chiedo appunto uno slogan, quanto può tirare la corda Duda nei confronti dell'Europa. Tutti i paesi del blocco Visegrad hanno e continuano ad avere tantissimo dell'Europa. Quanto può funzionare questo grimaldello politico del tuonare contro Bruxelles, però poi i fondi europei fanno comodo, ce li teniamo? Quanto può reggere questa narrativa? È difficile dirlo, proprio perché il tema dei fondi europei è ancora chiave, soprattutto con il fatto che nella prossima tornata saranno verosimilmente più bassi. Bisognerà vedere quanto sarà il gioco che riusciranno a fare su questo tipo di retorica. Non escludo che appunto la scusa dei fondi inferiori rispetto ai precedenti possa essere una piccola chiave per alzare ulteriormente la voce. E poi però in realtà i rappresentanti polacchi ascoltati a Bruxelles siano altri, a partire da Donald Tusk. Questo certo, potrebbe certo essere il giusto contraltare. È certo. La voce di Salvatore Greco, Centrum Report, in diretta da Varsavia. Salvatore, però, stai qua con me perché c'è un'altra voce che ti voglio far sentire in diretta. Lo facciamo con l'ospite. Che vuol dire chiusura di questa puntata in nessun luogo lontano, che vuol dire ringraziamento a tutti voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra. L'appuntamento è per domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.